5 gennaio del giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 5 gennaio. Oggi ho avuto un'altra grande soddisfazione. Pare proprio che in casa di mia sorella si incominci un po' a render giustizia ai ragazzi. Stamani, verso le 10, è venuto da mio cognato il professore Perussi, quello che fa le cure elettriche. E siccome si son chiusi tutte e due nello studio, io, dubitando che ci fosse qualche nuova complicazione nell'affare di quel signor Marchese ritinto, al quale sfregai una cipolla nel muso mentre era chiuso nel bagno di luce elettrica, mi son messo con l'orecchio al buco della serratura per ascoltare. Dico la verità, se invece di aver sentito quel che ho sentito proprio con quest'orecchio me l'avesse raccontato qualcuno, non ci crederei per tutto l'oro del mondo. Il professor Perussi, appena entrato nello studio, dando in una gran risata, ha detto al collalto queste precise parole. «Non sai che mi capita? Quel marchese, sai bene, che veniva da me a fare i bagni di luce, dopo la canagliata che gli fece l'altro giorno quel pezzo da galera di tuo cognato, mi ha detto che in vita sua non era stato mai bene né si era sentito così in forze come quel giorno, e che certo doveva dipendere dalle fregagioni di cipolla fattegli sul viso durante il bagno. Conclusione. Ora nel mio gabinetto gli fa una cura nuovissima, mai sentita rammentare nelle cronache scientifiche di tutto il mondo, che ho battezzato bagno di luce con massaggio facciale di Allium Cepa». A questo punto hanno dato tutte e due in una grande risata, e questa è stata una fortuna perché così non hanno sentito la mia. Poi il collalto ha raccontato il fatto della Marchesa Sterzi e qui da capo a ridere come due matti. E pensare che spesso si sgridano i ragazzi per certe cose che se i grandi aspettassero il tempo necessario per vedere come vanno a finire, dovrebbero invece lodarle e ringraziarci di averle fatte. Fine del 5 gennaio.